Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. Oggi a Destini Incrociati ci addentriamo nelle vite di una delle coppie più celebri d'America. Sono passati ormai 80 anni da quando i nostri due protagonisti furoreggiavano in giro per le strade del Sud-Ovest. Eppure il loro mito è ancora intatto, come se non fosse passato nemmeno un giorno. Andiamo subito a conoscerli, anzi a riconoscerli. Un vento solenne batte senza sosta sulle campagne vicino Dallas, Texas. È tempo di addii. Lo sentono tutti e nessuno lo nega. I nostri protagonisti di oggi si sono dati appuntamento con i propri cari qui, su una stradina isolata, per l'ultimo saluto. Sentono che l'appuntamento col proprio destino ormai è vicino e non vogliono arrivare impreparati. Quando la madre della nostra protagonista, affranta, le dice che non vuole sentire parlare di morte, lei risponde con tranquillità di non turbarsi, perché la morte sta arrivando ed è inutile negarlo. Le allunga quindi una poesia che ha scritto giusto pochi giorni prima. È nota a tutti la storia di Jesse James, uomo, eroe e bandito. Ma presto il mondo avrà un nuovo mito. Ecco la storia di Bonnie and Clyde. Ecco la storia di Bonnie and Clyde. Bonnie e Clyde sono senza dubbio i criminali più famosi e affascinanti che la storia ricordi. Difficile immaginarli separati, abituati come siamo a considerarli un tutt'uno, un duo affiatato e inscindibile nella vita così come nella morte, che quel giorno si affaccia con fare minaccioso. Eppure, se vogliamo sviscerare la loro storia, dobbiamo ricostruire i loro percorsi, i sentieri che li hanno portati a un incontro miracoloso e insieme fatale. Partiamo dalla nostra poetessa, la bella e spregiudicata Bonnie Parker. Bonnie Parker. Una bimba gioca con un mucchietto di terriccio davanti a una casa di rovina, in Texas. Dentro, sua madre prende dallo scaffale un'altra lattina di porridge marca Tiger, l'unico alimento che i Parker possono permettersi in quei duri anni che precedono la Grande Depressione, gli stessi in cui ha la sfortuna di nascere Bonnie Elizabeth Parker. È bionda e minuta, anzi minuscola. Eppure già da bambina mostra di avere una tempra d'acciaio. Un po' come sua madre, che quando rimane vedova non si perde certo d'animo. Raduna le figlie piccole e le poche cose che possiede e si trasferisce a West Dallas. Vanno ad abitare dai nonni in una zona di periferia tra baracche di legno e campi bruciati dal sole. È il 1914 e Bonnie ha solo 4 anni. Ce ne vorranno ancora prima che la sua voglia di fuggire da una grigia vita di stenti e delusioni esploda in tutta la sua forza dirompente. L'unica consolazione per la piccola Bonnie, sprovvista del conforto dei giochi con cui si divertono i bimbi della sua età, sembra risiedere nell'immaginazione. Come tutte le bambine, sogna di essere una principessa alla ricerca, va da sé, del perfetto principe azzurro. Fin dai tempi della scuola elementare, Bonnie Parker coltiva la passione per la poesia. Con le rime è un vero fenomeno. Le viene facile infilare tutte quelle parole una dietro l'altra senza sforzo apparente. Quello per la poesia è un debole che nutre e alimenta per un lungo tempo e che è destinato a esplodere nel delicato periodo dell'adolescenza. Non tutti a 16 anni possono vantare un curriculum scolastico come quello di Bonnie. Ha persino vinto il primo premio nella gara di spelling del concorso letterario della Contea. Ad avere una testolina invidiabile, ma nonostante gli ottimi voti e gli ottimi giudizi da parte degli insegnanti, Bonnie non riesce a stare ferma. Il suo animo irrequieto non si concilia con le pressioni dello studio e con la disciplina imposta dai professori. Appena ne ha l'occasione, Bonnie molla la scuola e scappa con Roy, il primo giovanotto capitato a tiro, il primo timido tentativo di trovare un principe azzurro. Poco importa che sia quello giusto o quello sbagliato, Bonnie ci crede con tutta se stessa ed è convinta che il miracolo di una vita nuova e migliore sia possibile. Bonnie ha un debole per gli scapestrati. O forse sono loro ad avere un debole per lei. Roy, il primo gigante buono che le fa girare la testa e mollare la scuola, è mite solo all'apparenza. Furto, ricettazione e rapina a mano armata sono i tre segnali inequivocabili di un'indole non proprio mansueta. A Bonnie non resta che mettersi l'anima in pace e metterci una pietra sopra. Così si sfoga sul suo adorato diario. Mai prendere gli uomini sul serio. Promemoria. Lasciare che tutti gli uomini se ne vadano all'inferno. Dopo la rocambolesca fuga col primo debosciato, capitatole sotto mano, Bonnie fa quindi dietrofront. Torna a vivere da sua madre a Dallas e si trova un lavoro come cameriera al Marcos Café, al 702 sulla Main Street. Ci lavora per un bel pezzo al Marcos. La bustina in testa, il bancone in legno scuro, l'aria densa di fumo. I clienti sono per lo più bifolchi, operai, camionisti di passaggio. A volte Bonnie rimpiange il suo Roy, altre vorrebbe semplicemente avere con sé una pistola, anche solo una scacciacani, per allontanare i più molesti. Altre ancora, invece, se ne sceglie uno tra quelli che le sembrano meno peggio e ci si consola un po', tanto per attutire la sensazione di solitudine che le fiata sul collo tutto il giorno, tutti i giorni. Il disprezzo per la mediocrità, la voglia di fuggire da una misera esistenza di lavoro mal retribuito e la folle ansia di cambiamento sono quotidianamente registrate da Bonnie sul suo diario, pagine e pagine di sfoghi contro una realtà troppo crudele per essere sopportata senza battere ciglio. Odio i clienti del bar. Odio quelle loro dita che sembrano luridi salsicciotti unti. Odio il grembiule che sono costretta ad indossare tutti i giorni. Odio il caffè annacquato, l'odore di fritto e di disperazione che aleggia tutto il giorno, tutti i giorni fra quei tavoli e quelle panche logore. Bonnie darebbe qualsiasi cosa pur di cambiare vita. Come se non bastasse, alle intime angosce della giovane si aggiungono quelle pratiche che proprio in quegli anni investono l'intera popolazione degli Stati Uniti. È l'inverno del 1930 e l'America si è appena addentrata nel duro sentiero della Grande Depressione che segue il tremendo crollo finanziario del 29. È un inverno rigido, e non solo dal punto di vista economico. Come se non bastasse, ci si mette anche la meteorologia. Il freddo è pungente. È come se centinaia di spilli si conficcassero nelle fibre dei vestiti. E di certo non sono in molti a potersi permettere di indossare un cappotto. Eppure è proprio in virtù della temperatura proibitiva che Bonnie riesce finalmente a incontrare l'uomo dei suoi sogni. Tutto ha origine da un banale incidente sulla soglia di casa. Non si tratta dell'abitazione della nostra protagonista, ma di quella della sua amica Edith Clay, una giovane allegra e solare che vive sempre lì a Dallas, Texas. Ed è proprio su un gradino di Dallas, pochi centimetri di pietra dura foderati da una corposa lastra di ghiaccio, che Edith scivola rovinosamente in un freddo, freddissimo mattino di quel gennaio del 1930. Edith si rompe un polso, niente di grave, ma deve restare immobile per un mese. Chiede aiuto alla sua amica Bonnie. Oggi Edith ha avuto un piccolo incidente domestico. È incredibile come un'occasione tanto spiacevole abbia spalancato le porte all'incontro più incredibile e più esaltante della mia vita. Sono così felice! Bonnie affida al suo diario le prime impressioni su quella strana giornata di gennaio. Giunta a casa dell'amica infortunata, Bonnie le fa compagnia e cerca di tirarle su il morale preparandole una cioccolata calda. Ormai è quasi sera quando qualcuno bussa alla porta. Edith va ad aprire mentre Bonnie resta in cucina. La sente confabulare con una voce maschile mai sentita prima. È un conoscente di Edith, è venuto a vedere come sta. Bonnie non ha idea che di lì a qualche istante, in quel pomeriggio qualunque di gennaio, per colpa di un volo sul ghiaccio e davanti a una tazza di cioccolata, finalmente incontrerà l'uomo che cambierà la sua vita per sempre. I due si piacciono immediatamente. Le tazze di cioccolata diventano due, poi tre, infine si trasformano palesemente in un pretesto per continuare a chiacchierare senza sosta. Si fermano entrambi a dormire da Edith, lei in camera con l'amica, lui sul logoro divano del soggiorno. Le teste sono appoggiate ai cuscini, eppure fluttuano a mezz'aria, ripercorrendo fin nei minimi dettagli quelle prime ore trascorse insieme. A Bonnie non è mai successo di provare quelle sensazioni, e sì che di uomini ne ha già visti parecchi. Nonostante abbia appena 20 anni. È così affascinante, così diverso da tutti gli altri. Mi ha detto che sono bellissima. Di complimenti Bonnie ne ha ricevuti tanti e delle più fantasiose varietà. Dopotutto fa la cameriera e gli avventori delle tavole calde sono sempre ben disposti a lasciarsi andare con il personale. Eppure, un semplice apprezzamento uscito dalla bocca di questo giovane quasi sconosciuto ha tutto un altro sapore. Quel sei bellissima non è certo uscito dalla bocca di un uomo qualunque. Bonnie ha appena fatto la conoscenza del suo Clyde Barrow. Clyde Barrow. Bonnie and Clyde advance the reputation, made the graduation, it's the banking business. Reach for the sky, talking Clyde would holler. His money put the dollars in the burlap bag. Now one big man, he tried to take them all along. They left him lying in a pool of blood and laughed about it all the way home. Bonnie e la sua logora divisa da cameriera non aspettavano altro che questo. Un miracolo che di nome fa Clyde Barrow. Bonnie non è mica stupida, capisce immediatamente che il suo miracolo non è esattamente uno stinco di santo. Clyde è della stessa pasta del caro vecchio Roy, ovvero della stessa pasta dei delinquenti. A Bonnie, dopotutto, sono sempre piaciuti i tipi difficili e non sa resistere al fascino di questo giovanotto smilzo, coi capelli neri e gli occhi profondi in cui perdersi a fantasticare. Ma da dove arriva Clyde Barrow? Qual è il percorso che lo porta a sconvolgere del tutto la triste routine di una ventenne annoiata e ansiosa di cambiamenti? Uno dei primi ricordi d'infanzia di Clyde Chestnut Barrow è quello di suo padre, che prende a legnate suo fratello maggiore Buck. Otto marmocchi, ecco la sfilza dei fratelli Barrow, nati da un'umilissima famiglia di mezzadri in una tendopoli di Tellico, Texas. Già da ragazzini si dilettano come ladruncoli, rubacchiando qua e là pezzi di automobili e utensili vari, finendo con l'irrompere anche in una stazione di benzina. Dice di avere le idee chiare. Da grande vuole fare il Texas Ranger, ossia arruolarsi come poliziotto nei corpi speciali texani. I suoi idoli sono l'attore del cinema muto William S. Hart, tutto cinturoni, giubbe a frange e pistole, e naturalmente Jesse James, il bandito gentiluomo dal sapore ottocentesco. Aveva due fori da proiettile mai del tutto rimarginati nel petto e un altro in una coscia. Gli mancava l'estremità del dito medio sinistro ed era sempre molto attento a celare la sua mutilazione. Soffriva anche di un'infiammazione alle palpebre che lo costringeva a strizzare gli occhi più del normale, come se il creato per lui fosse una visione troppo intensa. Le stanze sembravano riscaldarsi quando c'era lui. La pioggia cadeva più dritta, gli orologi rallentavano, i suoni venivano amplificati. Si considerava fedele ai sudisti e un guerrigliero di una guerra civile mai terminata. Non provava rammarico per le rapine, né per i 17 omicidi che rivendicava. Come Jesse James mezzo secolo prima aveva difeso i diritti dei contadini del Sud, oltraggiati dai soldati dell'Unione, così anche Clyde Barrow vuole farsi a modo suo paladino delle ingiustizie dei più deboli. Dopotutto, anche lui è nato nella parte debole dell'America, quella disagiata e lavoratrice, la stessa che ora stenta a sopravvivere al crollo dei mercati e delle speranze di quel giovedì nero del 29. Bonnie e Clyde sono la Barrow Gang. Avrete letto certamente di come rubino e ammazzino quelli che gridano imprudentemente. Clyde è un bandito per scelta, oltre che per vocazione. Bonnie ha capito immediatamente la dimensione del guaio in cui si sta cacciando e non potrebbe chiedere di meglio. Aspetta con pazienza il suo Clyde dal gennaio del 1930 al febbraio del 1932. Due lunghi anni che lui passa più dentro che fuori dal carcere, prima per una dozzina di furti d'auto, poi per un vano tentativo di evasione. Bonnie non ha fretta. Va a trovarlo, gli scrive lunghe lettere d'amore, si addormenta tutte le sere, assaporando il momento in cui finalmente potrà riabbracciarlo. Impossibile scordarsi di lui, impossibile dimenticare la sensazione di libertà che ha provato nell'immaginarsi un giorno la loro vita insieme. Tutti lo chiamano feroce assassino, perché di nessuno ha avuto pietà. Ma io lo conobbi per caso un mattino, quando era un ragazzo ancor pien di bontà. Peccato che quel giorno divenne un inferno e a quella bontà mai fece ritorno. Mi giurò amore eterno e giurò di spedirne più d'uno nell'averno. Bonnie Parker, emozionata e con gli occhi lucidi, aspetta il suo uomo all'uscita dal carcere nell'inverno del 1932. Clyde ha un regalo per lei. È un astuccio e contiene qualcosa di pesante avvolto in un nastro rosso scarlatto. La temperatura quel giorno è gelida, proprio come nel giorno del loro primo incontro. È ancora più fredda e la consistenza del metallo che ora sta fra le dita di Bonnie. Quello che la nostra protagonista stringe fra le dita piccole e delicate è una Harrington & Richardson, tascabile, del 1887, a tamburo, calibro 32, rivestimento in nickel. Sul ponticello, proprio sopra il grilletto, c'è incisa una data, 28 febbraio 1932. È l'inizio della loro vita insieme, per sempre, l'uno nelle braccia dell'altra. Destini incrociati. Destini incrociati assiste alla nascita di una delle coppie più celebri e pericolose che l'America ricordi. È quella formata da Bonnie Elizabeth Parker e Clyde Chestnut Barrow. Clyde insegna a Bonnie tutti i trucchi del mestiere. Per prima cosa, la sua donna deve imparare a usare il regalo che lui le ha appena fatto. Non si tratta di fiori o di profumi, ma di una Harrington & Richardson calibro 32. Clyde mi ha regalato una pistola. Lui sì che sa come usarla. Oggi siamo andati in campagna. Abbiamo sparato alle bottiglie vuote. È stato divertente. Non c'è nessuno migliore di lui. Il migliore dei principi azzurri, ma anche il migliore dei banditi. Il mito romantico del mascalzone sembra crescere e alimentarsi in Bonnie come un fuoco perpetuo e inestinguibile. Come può una ragazza resistere al fascino losco, proibito, conturbante di un fuorilegge, disposto a tutto pur di stringere la sua bella fra le braccia? Ad ogni modo, se io sono incastrato, tu puoi ancora salvarti. Di una sola parola e io ti rispedisco subito da tua madre, perché ti voglio bene e non voglio vederti rovinata per colpa mia. No. Eh? Ho detto no. Stando lontano da me, puoi trovarti anche un uomo ricco. Di un uomo ricco non so che farmene. Con me non avrai un minuto di pace. È una promessa? Lo conosce a malapena, ma in fondo cosa importa? Alle ragazze disperate degli anni venti interessa solo fuggire, a qualunque costo. Io non so dove mi condurrà questa bruciante passione per Clyde, ma non mi importa. A me interessa vivere. Anzi di più, mi interessa sentirmi viva. Clyde ha avuto e ha una vita complicata. Tanto meglio. Neanche a me è mai stato regalato niente. Questo ci rende simili. Ci rende ancora più uniti. Clyde Barrow, segnato da un'infanzia durissima, è ora fermamente intenzionato a riprendersi tutto quello che la vita gli ha tolto. E Bonnie Parker, ansiosa di spogliarsi della divisa da lavoro, è pronta a seguirlo. Può sembrare che si tratti di un gioco, ma è decisamente più pericoloso di quello che ci si aspetterebbe. Let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. To make me dream of you. And I wanna fall in love. L'amore di Clyde per la sua Bonnie si manifesta anche attraverso le inevitabili preoccupazioni. La vita a cui stanno andando incontro è sì libera, ma non certo semplice. La strada è accecante, si fatica a tenere il volante. Ma se tutte son buie, senza uscita, staranno insieme fino a che non sarà finita. Il sentiero si farà sempre più nebuloso, il percorso ogni volta più tortuoso. Il loro è un duello quotidiano, una lotta mano nella mano. Quello di Bonnie e Clyde è un sentiero accidentato verso il raggiungimento della agognata libertà. Ma si può davvero dire di essere liberi se si è costantemente in fuga? Il disprezzo, il desiderio di allontanamento dai vincoli della normalità li porta a scorazzare impunemente in giro per il sud-ovest degli Stati Uniti, rapinando banche, pompe di benzina, negozi di alimentari, senza mai fermarsi un attimo a riprendere fiato. Al duo si uniscono a turno vecchi compari di cella di Clyde e il suo amatissimo fratello Buck, insieme alla fidanzata Blanche. Eccoli tutti insieme, uniti al solo scopo di delinquere. Lo so che il conto è scoperto, ma le mani assicuro che domani mio marito verrà a versare... Ho detto mani in alto! Lasci stare quella borsa! Il canto delle loro gesta è sulle prime pagine di tutti i giornali. Se a Dallas fan fuori un poliziotto o svaligiano il banco dell'otto, la colpa è di Clyde. E alla sera io dormo sola e lui sogna di nuovo in galera. Se cerchiamo di vivere in pace, alla fine di ogni condanna qualcuno si affanna a farci la guerra. E Clyde dopo un po' lo sotterra. L'ex brava ragazza Bonnie, l'angelo con i riccioli d'oro che serviva ai tavoli in un affollato bar di Dallas, è ormai diventata una pericolosa criminale. Sa usare le pistole con mano ferma e sa guidare la macchina con destrezza quando occorre scappare dagli sbirri seminandoli per le strade di campagna. Una volta addirittura un Texas Ranger finisce nelle sue grinfie e si diverte un mondo a prenderlo in giro e schiaffeggiarlo fisicamente e moralmente, incurante del fatto che forse un giorno quel poliziotto le restituirà il favore con gli interessi. Lo strillone disse un giorno: se solo Clyde ci levasse di torno 5, 6 o 10 poliziotti di quelli venduti e corrotti. Bonnie e Clyde sono incuranti del pericolo, disinteressati alle dure conseguenze del proprio agire. Il punto per loro non è arricchirsi, ma avere la libertà di vivere la vita secondo le proprie regole. Questo è quello che conta per Bonnie e Clyde. Ed è questa professione di fede nella libertà, unita all'incrollabile convinzione di bastarsi l'uno all'altra, che li rende così appetibili per la gente comune. Bonnie e Clyde, in molti sensi, sono degli eroi. Assassini e ladri, certo, ma con un cuore. La polizia non ha ancora un rapporto, ma Clyde oggi gli ha dato torto. Nessuna guerra, non lavoriamo di notte. Stasera uniamoci a chi può dare le botte. Bonnie e Clyde, i gangster più temibili d'America, la coppia più affiatata cui la polizia sia mai stata alle calcagna, sanno che la loro pericolosa partita a guardie e ladri non potrà durare ancora per molto. Per questo si sono dati appuntamento con i propri cari in una strada sperduta di campagna, un luogo nascosto e isolato dal resto del mondo, per concedersi un ultimo saluto con le persone che li amano e che li hanno visti crescere. Bonnie e Clyde, dopo tutto, sono ancora dei ragazzi. Hanno solo poco più di 20 anni. Decisamente pochi per sentirsi già braccati dall'oscurità e dalla fine imminente dei giochi. Ma la resa dei conti sta arrivando e ormai negarlo non serve a nulla. Meglio rimboccarsi le maniche e vivere al massimo gli ultimi momenti che restano prima che sia troppo tardi. Destini incrociati. Negli anni 30 in America, Bonnie e Clyde sono un pericolo, una leggenda, un'istituzione. Nel corso dei mesi hanno svaligiato banche e negozi, ucciso poliziotti e innocenti di passaggio. Sprezzanti del pericolo, Bonnie, Clyde e la loro banda hanno terrorizzato una buona fetta d'America, derubando e mietendo vittime in ogni città e cittadina del sud-ovest. Anche la cosiddetta banda Barrow, comunque, ha avuto le sue perdite. Bonnie e Clyde, ovvero il nucleo forte e originario della cricca, sono ormai rimasti soli. Viaggiano sempre insieme e vedono sfrecciare davanti a loro le stagioni, correndo sempre come bestie in fuga. D'inverno si lavano nell'acqua ghiacciata dei fiumi, d'estate si fanno divorare dai tafani e dalle zanzare. Tirano avanti a gallette, zuppa di fagioli e barbiturici, dormono sui sedili posteriori di auto rubate, abbracciati stretti per non morire di freddo, senza neanche più la forza per darsi un bacio. Siamo due fuggiaschi disperati. La notte non chiudiamo occhio, terrorizzati dall'idea che ci trovino. Non so per quanto tempo potremo andare avanti così. Per amore di Clyde e della libertà, Bonnie ha compiuto il suo sacrificio. Ha detto addio alla sua famiglia, scegliendo di rimpiazzarla con una nuova spregiudicata Bonnie e con l'unico legame che le è stato possibile mantenere, quello con Clyde. Ma ci sono momenti in cui la certezza del suo amore sembra non bastarle. Ho votato tutta me stessa a Clyde e alla nostra voglia di essere liberi e innamorati. Ma a volte mi capita di vacillare. Mi manca la mia mamma, non la vedo più da così tanto tempo. Clyde è tutto quello che le resta. Clyde e la sua famiglia, anche se i due di fatto non si sono mai sposati. Forse non saranno marito e moglie secondo le leggi dello Stato, ma per loro non conta quello che predicano i codici e la burocrazia. L'onestà non è di certo la qualità principale del duo, almeno non quella nei confronti del codice penale. Se riuscisse ad acciuffarli, la polizia potrebbe certamente sbizzarrirsi a far applicare su Bonnie e Clyde le svariate sentenze di condanna a morte che si sono guadagnati giusto in un paio d'anni di scorrerie. Ma ci sono anche condanne a morte che non necessitano di un visto ufficiale per essere eseguite. E sono queste le più pericolose per due fuggitivi ormai giunti allo stremo. Ma un giorno anche noi due cadremo. E un metro di terra ci divideremo. Due o tre piangeranno, ma i più gioiranno per la fine di Bonnie and Clyde. Il 16 maggio del 1934, sulla prima pagina del Dallas Journal, viene pubblicata una vignetta satirica. C'è il disegno di una sedia elettrica con i fili, le cinghie di cuoio e tutto il resto. Sopra la sedia c'è appeso un grosso cartello. C'è scritto «Riservato a Bonnie e Clyde». A dirla tutta, non è affatto divertente. Eppure Clyde Barrow ride fino ad avere il mal di pancia. Non può fare a meno di vedere il lato comico della faccenda. Lui sa perfettamente che non esiste nessuna sedia elettrica per lui e per Bonnie. Loro sanno ormai che la fine è vicina, ma sarà un epilogo senza tribunali, senza giurie, senza manette, senza appelli. Eppure certe notti, mentre si stringe al petto del suo amato Clyde, Bonnie sembra ancora sperare in un finale diverso. Come vorrei svegliarmi un mattino e uscire sulla veranda, curare le rose nel giardino davanti a casa, innaffiare il prato. Come vorrei parcheggiare l'auto nel vialetto accanto alla porta d'ingresso. Ma sono tutte cose che Bonnie non potrà mai avere. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Torniamo là dove abbiamo cominciato, su quella stradina sterrata alle porte di Dallas, battuta da un vento caldo e solenne. Proprio a pochi giorni da quell'ultimo saluto con i familiari, a una manciata di istanti dall'ultimo abbraccio tra Bonnie e la sua adorata madre, trova il suo compimento la condanna a morte dei due imprendibili fuggiaschi. Sono le 9:15 di mattina del 23 maggio 1934. Clyde ha 25 anni, la sua Bonnie appena 23. Tratti in un'imboscata a bordo dell'ultima auto che avevano rubato, una Ford Sedan V8 grigia, finiscono crivellati da 167 pallottole. Mi ero già fatto un'idea su come avrebbe dovuto essere la loro fine. Sarebbe stata una sorta di balletto spastico. Questa era l'immagine che avevo in mente. Chi parla è Arthur Penn, regista di quel gangster story che ha regalato le voci ai protagonisti della nostra storia di oggi. Il film è un capostipite del cosiddetto gangster movie e la sequenza della morte di Bonnie and Clyde, in particolare, ha fatto scuola in virtù del suo realismo antiretorico. Nell'ultimo ventennio, molti cineasti, affascinati dal mito veicolato dal film, si sono cimentati di buon grado con storie di personaggi chiaramente ispirate alla coppia di gangster più famosa d'America. Quando ti chiederanno chi è stato a fare questo, tu gli dirai Mickey e Mallory Knox. Sono stata chiara, ripeti! Mickey e Mallory Knox. Mickey e Mallory Knox. Ti amo, amica! Ti amo, Mallory! Se Assassini nati di Oliver Stone è un esempio di declinazione del mito di Bonnie and Clyde, che dire allora dell'ultra celebrato Pulp Fiction di Quentin Tarantino? Questo momento, sì, qui. Forza. D'accordo. Come l'ultima volta, ti ricordi bene? Tu pensi ai clienti? Io mi occupo del personale. Ti amo, zucchino mio. Ti amo, coniglietta mia. Nessuno si muova! Questa è una rapina! E se per caso qualcuno di voi coglioni si azzarda a muoversi, io vi faccio secchi, brutti figli di puttana, tutti fino all'ultimo! La violenza eccessiva, fumettistica, di Pulp Fiction è una sorta di rilettura postmoderna del mito di Bonnie e Clyde. La stessa Bonnie era riuscita, grazie alle sue abilità liriche, ad eternare la sua immagine e quella di Clyde mettendole in versi. E quelle rime, che hanno accompagnato il nostro racconto, sono tutt'oggi testimonianza del fascino indiscutibile di due figure certamente controverse, ma senza dubbio affascinanti. Quella di Bonnie e Clyde è una storia tragica, epica e grandiosa. Una storia di perdizione e redenzione, di giustizia e ingiustizia, di crimine e di amore. Una storia che difficilmente smetterà di appassionarci. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.